Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Non siamo razzisti, siamo persone che siamo stanziati. Non siamo razzisti. Non siamo razzisti, siamo solo stanchi, urlano. Il vero criminale è lo Stato che ci ha abbandonato, scrivono sugli striscioni. È un'altra giornata di tensione nel quartiere di Tor Sapienza, estrema periferia ad est di Roma. I residenti scendono in strada per raccontare il loro disagio e la loro esasperazione dopo le ripetute aggressioni subite negli ultimi giorni. Proprio sono caduto di botto. Sono andato lì, poi è venuta la... I fatti di Tor Sapienza sono rimbalzati in tutti gli organi di stampa nazionali per giorni e giorni. Sono una notizia di cronaca. Ma può essere anche un altro il punto di vista con cui si dà questa notizia, con l'occhio di un giornalista che si occupa di sociale. Quando si dice giornalismo sociale sembra di parlare di una fetta quasi secondaria del giornalismo che si occupa di qualcosa che riguarda le categorie sommesse nella società e sommerse. È qualcosa che sembra a metà, perlomeno una percezione sbagliata, forse un po' antiquata, dico a metà fra il volontariato, fra persone che si prodigano per gli altri, che fanno filantropia, che si occupano degli emarginati, dei soli. Insomma, il giornalismo sociale potrebbe essere, in una superficiale, disattente, ripeto, antiquata lettura, qualcosa che ha a che fare con quel grande mondo che si occupa delle persone di cui il mondo in realtà non si vuole occupare. Ma in realtà non è così. Il giornalismo sociale, secondo me, oggi è un punto di vista molto moderno, molto legato alle necessità che impone la contemporaneità, totalmente privo, alleggerito di tutti quegli orpelli fatti di sentimentalismo, di trascinamento, di ostentazione di valore su cui potrebbe un, ripeto, osservatore superficiale appoggiare la sua disattenzione. Di giornalismo sociale si parla oggi, si parlerà anche domani in maniera molto approfondita, anzi in maniera quasi didattica, alla comunità di Capodarco di Fermo, dove redattore sociale ha indetto un seminario di formazione per giornalisti, proprio partendo dai temi del disagio e della marginalità. Il titolo è Rimozioni, giornalismo selettivo tra ipocrisia e necessità. Qui alcuni giornalisti andranno, innanzitutto per ottenere i crediti necessari finalmente da quest'anno per avere un aggiornamento professionale come tutti gli altri ordini professionali, ma con un occhio diverso, per rendersi conto che le notizie che vengono date ormai a profusione, a bizzeffe, dai talk televisivi, dagli spettacoli di intrattenimento che hanno la loro rassegna di casi umani ogni volta, e su questo anche si è aperta una recente polemica tra l'ordine dei giornalisti e Barbara D'Urso, non è una giornalista, quindi non può parlare di casi umani. Ma perché i giornalisti possono parlare di casi umani e perché noi citiamo caso umano come se fosse una sorta di categoria della televisione del dolore, la televisione della spettacolarizzazione del dolore? Stefano Trasatti, buongiorno. Buongiorno. Direttore dell'agenzia di informazione, redattore sociale, spesso è stato nostro ospite, è un signore che da tanti anni si occupa di sociale e che, a cui va il merito di avere svecchiato questo tipo di metodologia di racconto della realtà. Redattore sociale non è un giornale online, un'agenzia online soltanto per addetti ai lavori, ma ormai fa notizie, tratta notizie e condivide con chi vuole avere un occhio più attento su questa realtà dei punti di vista. Come la vedi te oggi nella totale e molto diffusa interpretazione errata del giornalismo sociale? Oggi si parla di giornalismo sociale, ma si parla in fondo di un metodo che potrebbe dare la scaletta anche ai telegiornali classici, a quelli tradizionalisti, a qualsiasi tipo di organo di informazione. È un punto di vista, un'attenzione particolare, un bagaglio di competenze particolari per trattare la realtà, o è qualcosa di diverso? Devo dire che negli ultimi anni la situazione è migliorata, però persistono ancora alcuni dei problemi che noi da molti anni, ormai da due decenni, segnaliamo, cioè appunto che le persone che si occupano di temi sociali, insomma, che a trattare questi temi siano buoni tutti. C'è l'ultimo arrivato in redazione, c'è una notizia che riguarda il sociale, magari parte dalla cronaca nera, mandiamo lui tanto che ci vuole. No, è un giornalismo come tutti gli altri, giornalismo tout court, che anzi ha anche un bisogno di una, di un qualcosa in più, di un'attenzione in più, perché spesso si trattano fatti e persone che non hanno alcun potere, non possono rivolgersi al direttore, non possono fare querele. Sono protagonisti di storie che sono difficili da raccontare, di contesti difficili da raccontare, è un giornalismo. Non hanno proprio strumenti in replica, non è che non avrebbero diritto, proprio non ce la fanno, sono fuori talmente dal mondo delle interconnessioni sociali per cui per loro replicare è impossibile. Esattamente, e quindi è un giornalismo che ha bisogno di preparazione, così come ne ha bisogno il giornalismo economico, il giornalismo sportivo, il giornalismo politico, ed è un giornalismo, noi crediamo di aver dimostrato che si può parlare di temi sociali come si parla di tutto, e che il giornalismo sociale non è occuparsi dell'evento di raccolta fondi con la grande testimonial oppure della nuova ambulanza o della buona azione, ma è anche denuncia e anche entrare nelle cosiddette hot news, no? Quelle che stanno nelle prime pagine. E poi se fatto così può essere sì scelto al pari di altre notizie per metterlo in prima pagina, per metterlo in apertura delle pagine di cronaca e così via. Voglio fare un esempio, Stefano Trasatti. Voi avete fatto una sorta di elenco delle 100 notizie più cliccate su redattoresociale.it. Ti faccio sentire il video che ho preso proprio dal vostro sito della notizia più cliccata, analizziamola, vediamo come è stata trattata e come altrimenti potrebbe essere trattata in maniera totalmente diversa, senza quel manuale dei buoni comportamenti che deve avere un redattore sociale. Io sono Andrea, ho 28 anni, vivo in Colombia. E da quanto tempo è che stai in Italia? Da 4 anni. Quando mi sono andato in Italia. Mi piace tantissimo. Ti piace tantissimo? A me piace proprio, le discoteche, il mare. Senti, dove vivi? Sono in casa a Termini. La tua casa è a Termini? Sì. Quindi dormi lungo i binari? No, dormo qua e poi. Qui fuori, davanti alla Andrea, la trans di Termini, trovata massacrata accanto al binario 10 il 29 luglio, il suo corpo era pieno di lividi e ferite, aveva soltanto 29 anni, il giorno prima di morire però il redattore sociale l'aveva intervistata e questa è la sua intervista. Ecco, qual è la maniera con cui è stata data questa notizia e perché è stata la più cliccata, la più seguita secondo te? Beh, intanto per il suo contenuto emozionale, perché pubblicare una video intervista a una persona che il giorno prima era viva e poi è stata ritrovata morta ha una carica emozionale molto forte. Però questa notizia sintetizza un po' i problemi che dicevamo prima, no? Il tema transessuali, il tema prostituzione, come viene trattato? Insomma, è inutile fare un approfondimento su questo, lo sappiamo tutti, il pruriginoso, il bizzarro, no? che c'è in molti resoconti, e spesso questi temi appunto vanno a finire solo in chiave di cronaca nera e vengono raccontati con ammiccamenti e così via. C'è un fatto, queste persone non parlano mai, sono sempre i giornalisti che parlano, quindi la prima cosa che sottolineerei è che noi facciamo parlare questa persona, viva o morta, noi lo stavamo per fare il servizio di lei viva, però parlava ed è una cosa rivoluzionaria, le persone poverissime, le nuove povertà, gli immigrati, i rifugiati che arrivano a Lampedusa o in altre zone, tutti questi protagonisti di storie tristi o anche non tristi, difficilmente parlano direttamente, parlano sempre i giornalisti. Ti posso fare l'esempio opposto, apparso sulla testata Leggo, che è una testata pop, anche divertente a volte. Trans ossessionato da Kim Kardashian, il mio lato B è migliore del suo. Sfedere Tiffany, signora londinese, che si mette nella stessa nota posa della famosa soubrette uscita su un settimanale americano e dice il mio lato B è migliore del suo. Il protagonista è omogeneo come categoria, quello della notizia più cliccata sul vostro sito, però il trattamento è tutt'altro, altra materia è. Sì, e qui siamo all'eccesso opposto, non è che questi aspetti non ci siano, questi aspetti di costume che fanno anche un po' ridere, che attirano, e non è che bisogna mettere in luce soltanto quelli, diciamo, drammatici della persona che parla del suo disagio sociale. è che bisogna, ci vuole un equilibrio, cioè questi aspetti, quando si trattano questi temi, ci sono tutti e due e quindi vanno equilibrati. Usare un registro eccessivamente spostato su un lato non dà una visione concreta. E basterebbe, ecco, faccio un paradosso, usare la stessa attenzione che i giornalisti usano quando parlano, quando raccontano, intervistano personaggi politici potenti. Lì c'è un'attenzione che va proprio nel dettaglio più infinito, nel soppesare le parole. Fanno rileggere l'intervista 100 volte, parlano con l'ufficio stampa, si preoccupano, dicono cambi pure, se qualcosa non va, tagliano, prendono, cuciono, rifanno le domande con il loro incontrocampo perché non sono venute bene le domande. Insomma, è tutt'altra cosa. Melog. Cronache meridiane. Sull'isola si vivono sentimenti, posizioni diversi su questa giornata della memoria e dell'accoglienza voluta per il 3 ottobre. I pescatori con la loro ghirlanda lasciata nel punto della tragedia non condividono tutto quanto sta accadendo a Lampedusa. A noi risulta che le commemorazioni si fanno in silenzio e si fanno nel ricordo di... E qui invece è diventato uno spettacolo teatrale. Dicono no al centro di accoglienza nel timore che tutto torni come prima, no alle passerelle dei politici. È diventato uno spettacolo teatrale, dice l'abitante di Lampedusa, su un'altra vicenda, una vicenda trattata anche dal giornalismo sociale, oltre dalla cronaca, su cui comunque esistono varie possibilità di racconto. Ricordo che stiamo parlando di giornalismo sociale perché oggi alle 14 inizierà a Capodarco di Fermo il seminario di formazione per giornalisti, Rimozioni, giornalismo selettivo tra ipocrisia e necessità. Seminario che dovrebbe dare strumenti ai giornalisti professionisti per leggere il sociale. Di Lampedusa si è interessato in maniera molto capillare, molto intensa, Valerio Cataldi, che è inviato del TG2. Cataldi, buongiorno. Buongiorno a voi. Tu hai avuto anche qualche difficoltà, diciamo, in corso d'opera. Durante la celebrazione del 3 ottobre, intendi? Sì. Sì, ci sono state delle proteste, nel senso che è stato occupato il set del TG2, della RAI, da parte di una serie di personaggi, tra cui anche la persona che ha parlato prima, che tu hai definito un cittadino di Lampedusa. In realtà quel signore è un ex candidato sindaco battuto da Giusi Nicolini, peraltro, alle elezioni in cui lei... Sai, alla radio non vedevo la faccia, sentivo solo l'audio, poi non ha capacità di essere così conosciuto, ecco. Questo, guarda, lo sottolineo perché io conosco bene il contesto, conosco bene la situazione e so anche che quel tipo di proteste avevano, come dire, un obiettivo diverso dal dire è soltanto una pagliacciata, è soltanto la sfilata di personaggi che vogliono mettersi in mostra. In realtà quello che è stato fatto il 3 ottobre a Lampedusa è stato la celebrazione con la politica e i personaggi politici di rilievo nazionali e internazionali, ma c'erano 45 superstiti a Lampedusa in quei giorni. Sono tornati grazie al contributo di tante associazioni, ONG, che hanno contribuito a pagargli le spese di viaggio, perché vengono dai paesi del nord Europa, nei quali sono andati dopo essere transitati in Italia. No? Ecco, Valerio, vorrei capire meglio, per trattare questo tipo di notizie può esistere un passo diverso? Diciamo, nella nostra, ahimè, ormai vetusta categoria, molti ci tengono a impugnare la specificità. Io sono un giornalista sportivo, io sono un giornalista parlamentare, io mi occupo di medicina e salute. Ma il giornalista sociale, com'è non è entrato ancora nel rango delle categorie gloriose del nostro giornalismo nazionale? Ma io, guarda, credo, non so, io in qualche modo mi occupo da sempre di questo tipo di argomenti. Quando ero giovane, di adesso qualcuno mi definiva l'esperto di sfigati, no? E quindi c'è questa... Hai detto esattamente quella che è stata la percezione finora più diffusa rispetto al giornalista sociale, quello che si occupa della sfiga. Esatto, e c'è questa accezione negativa che deriva evidentemente dall'argomento di cui tratti. Del resto basta pensare a come abbiamo chiamato da sempre, no? Noi diamo sempre un significato molto preciso alle parole, noi cittadini intendo, quando parliamo di migranti all'inizio li chiamavamo marocchini, a prescindere da qualunque provenienza fossero, poi sono diventati extracomunitari, però c'era incongruenza con gli extra che sembrava geopoliticamente più corretto, in realtà c'era incongruenza con gli americani che sono extracomunitari ma non sono neri, insomma. O gli svizzeri che poi tutt'altro meno che la qualifica di sfigati. Però mi viene da dire una cosa, Stefano Trasatti, ricordo direttore dell'Agenzia di Informazione, redattore sociale, analizzando le prime 100 notizie in, diciamo, in percentuale, il 40% sono notizie che riguardano la disabilità, che in teoria nella percezione generale è il top della sfiga, quelle cose che la gente non vuole nemmeno toccare perché è come se si contaminasse. Questo come te lo spieghi? Beh, queste 100 notizie intanto va detto non hanno un valore statistico assoluto, però sono un indicatore di massa. Certo, sono un indicatore. Io ho un'opinione, al di là del fatto che noi di disabilità ci siamo sempre occupati molto, è uno dei temi nostri principali, però ha colpito anche me questa percentuale così alta, siamo quasi sul 4 su 10. Secondo me dipende da un fenomeno sociale che non è stato ancora rilevato ed è un grandissimo attivismo da parte delle famiglie, delle persone disabili e dai disabili stessi che possono, di informarsi e di usare la rete. Queste notizie spesso sono state rimbalzate e potenziate dai social, quindi credo dipenda molto da questo ed è un fenomeno nuovo sia nella società che nell'informazione. Ecco, io voglio sentire Anna Contardi, buongiorno. Buongiorno. Coordinatrice nazionale Associazione Italiana Persone Down, diciamo, se vogliamo, è brutto dirlo, ma sai, ognuno ha i suoi problemi a casa, fare categorie, ma diciamo voi siete fra una delle associazioni più attive, addirittura le persone down oggi hanno una loro fiction televisiva, sono completamente uscite dall'idea che potessero essere categorie da tenere, non dico in disparte, ma marginali rispetto alla rappresentazione del massimo splendore dell'umanità. Avete lavorato bene quindi? Lo sta dicendo lei, io ne sono fiera, diciamo che è stato uno dei nostri grossi obiettivi in questi anni, cioè uno dei temi forti dell'Associazione Italiana Persone Down è stata la comunicazione, cioè noi volevamo lavorare per un'immagine nuova delle persone con sindrome di Down. Quando io ho cominciato a lavorare in associazione 33 anni fa, l'immagine che c'era era un'immagine veramente molto negativa e anche nei libri di medicina l'immagine che passava su chi erano le persone down era persone totalmente dipendenti, con degli stereotipi che purtroppo intanto ci stanno ancora molto marcati, quindi per noi il lavoro un po' a tutto tondo è stato anche di cercare di parlare con tanti pubblici per cercare di modificare queste immagini. Quindi avete usato degli strumenti che per paradosso sembrano gli strumenti del diavolo, quelli della comunicazione, della confezione comunque di un prodotto che comunque deve essere somministrato ad altri, che non è detto che abbia una condivisione così profonda dei valori di cui si fa portatore una persona che si occupa di categorie, diciamo, in qualche maniera con dei problemi rispetto alla maggior parte delle persone. Quindi avete lavorato bene, avete messo a punto quello che può essere chiamato l'algoritmo perfetto della comunicazione, cioè io ho un mio valore, porto un mio valore, che è un valore però presunto, diventa oggettivo quando so venderlo. Stefano Trasatti, sei d'accordo che la ricerca dell'algoritmo perfetto, cioè di far condividere un valore che in realtà è soltanto, di cui è soltanto portatore il giornalista sociale in quel momento, è la chiave di volta per poter fare un buon giornalismo sociale? Sì, esatto, va tutelato il valore della notizia portandolo alla massima possibilità di divulgazione, senza che sia però banalizzato, che sia drammatizzato, che sia poi svalorizzato. È sempre sul filo del rasoio, diciamo, è un lavoro molto difficile. È sempre sul filo del rasoio. Guarda, è una cosa che noi proprio da quando noi siamo nati nel 2001, ma siamo relativamente nuovi per il grande pubblico, perché prima eravamo solo un'agenzia in abbonamento, adesso abbiamo diviso in due siti, quindi il sito di Redazione Sociale è tutto a consultazione gratuita ed è per tutti. E ogni giorno, ogni notizia, noi abbiamo ci poniamo questo problema, come trattarla, come titolarla, fin dove spingerci, perché i rischi di andare sulla volgarità, andare sulla banalizzazione, che è peggio a volte la volgarità, è sempre in agguato anche per noi che teoricamente dovremmo essere più competenti su questi temi perché li trattiamo tutti i giorni. Diciamo, questa è la sottile differenza tra fare un giornale che abbia un'ispirazione di seria formazione sociale e fare un magazine pulp che magari vende tante copie, è molto bello da leggere sulla metropolitana, ma non cambia nulla della realtà. Grazie Stefano Trasatti, grazie Anna Contardi e Valerio Cataldi, poi anche Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. A lunedì.